Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadore in regia. L'azzurro può essere anche il colore della sofferenza, lo abbiamo scoperto, lo stiamo scoprendo quest'estate dura tra Confederation Cup calcistica, deprimente nell'Italia del basket, di cui parleremo in chiusura di programma, inconsistente, ed è questo l'argomento da cui partiamo nell'atletica. Il tuffo nelle piscine romane è stato solo una breve vacanza in quest'estate, vacanza alla quale siamo stati condotti peraltro da due fuoriclasse bionde più che da un movimento intero. L'Italia dell'atletica invece fa percorso netto verso il basso, caduta libera, zero medaglie come mai era successo nella storia dei mondiali, inutile sperare, stupido sperare nei miracoli dell'ultima ora o dell'ultimo giorno. Schwarzer, che era la nostra punta di diamante, Alex Schwarzer, oro a Pechino, si è ritirato dopo metà gara questa mattina, dopo esattamente 1 ora 52 minuti e 15 secondi nella 50 chilometri, colpa del mal di stomaco, dice lui. Sentiamolo. Da quando sono qua che ho problemi a digerire, abbiamo provato di tutto negli ultimi 3 giorni a provare a sistemare la cosa, però non siamo riusciti. Io oggi all'inizio sono andato al mio ritmo, poi dopo 2 rifornimenti mi sentivo di nuovo gonfio come negli ultimi 2 giorni in allenamento. Ho rallentato un attimo perché speravo che magari mi passa, non mi passava, ho aumentato, non mi passava neanche lì. Non so cosa dire, perché un conto è se fai un anno di festa e vieni qua e ti ritiri, allora te la sei cercata, è colpa tua. È duro perché il ritmo non mi sembra fortissimo davanti, e B non, fisicamente non potevo prepararmi meglio negli ultimi mesi come adesso. Se poi vai in gara e hai disturbi così che non riesci proprio a esprimerti, è molto molto duro da accettare. Vince il russo Kirdyapkin, 8º, Marco De Luca migliore degli italiani con il suo primato personale, 3:46:31. Su Schwarzer devo dire che quel grande intenditore che è Giorgio Rondelli, cosa che non mi sorprende, insomma, la sua previsione azzeccata, aveva detto dall'inizio, esattamente una settimana fa, venerdì scorso, che Schwarzer non lo convinceva come approccio alla gara. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a te. Sì, avevo anticipato, purtroppo non mi convinceva. È vero quello che dice Schwarzer, che si è allenato duramente gli ultimi 6 mesi, non ha pensato altro che alla gara, però c'erano anche qualche segnale negativo. Anche durante l'inverno aveva avuto una pancreatite, anche un'altra 50 chilometri a cui aveva partecipato si era ritirato, insomma. Poi con tutto il resto, con tutta la tara del dopo Pechino, quando un ragazzo bravo come lui è balzato agli onori della cronaca, è diventato un grande personaggio anche per, non c'è niente di male, anche per la sua storia personale con Caroline Costa. Adesso qualcuno dirà che la cosa non c'entra, essendo stato allenatore anche di qualche campione mondiale olimpico, ho sempre visto che questo tipo di situazioni, le ho vissute anche un po' anch'io sulla mia pelle, c'entrano e come, perché poi comunque portano distrazione, certo. Comunque portano poca concentrazione, comunque sono delle cose che poi te le porti in gara, perché sai già che se le cose andranno male ti diranno: hai visto che non è questo l'approccio migliore per chi deve fare fatica. E certo, c'è un luogo, una situazione che è un po' comune: facciamo fatica, soprattutto da noi in Italia, a difendere le nostre punte, soprattutto dopo i grandi risultati. Certo, certo. Infatti Baldini, che oggi ha criticato duramente la prova di Schwarzer, ha urlato nei microfoni tutta la sua delusione, però anche lui dopo Atene non mi risulta abbia fatto incetta di medaglie importanti. Facciamo fatica a gestire la fama, probabilmente i nostri atleti fanno fatica a gestire la fama, e questa è una chiave di lettura. Resta il fatto che, Giorgio, torniamo a casa, perché dicevo inutile sperare i miracoli dell'ultimo giorno, no? Dello studente che non ha studiato e va lì a fare l'esame tanto perché gibilisco, non ha chance, perché gli atleti, quei pochi atleti che ci restano, non hanno chance da medaglia, ed è inutile, sarebbe inutile illudere la gente. Abbiamo 2 medaglie di legno, quella di Rubino nei 20 km e quella della Di Martino ieri sera nel salto in alto. È tutto quello che abbiamo ed è davvero pochissimo. Come mai era successo? Ma come diciamo che la Di Martino intanto credo che abbia dato quello che poteva, ha trovato di fronte tre atlete, certo. Che dal punto di vista non tecnico, perché lei salta bene, ma dal punto di vista potenziale, altezza, età, esplosività, hanno qualcosa di più, quindi niente da fare. Rubino è un risultato importante perché è un ragazzo giovane e abbiamo perso per strada abbiamo perso Schatzer e abbiamo perso un po' per strada, anche se ormai i risultati negativi di Brugnetti cominciano a diventare numerosi in mezzo delle gemme meravigliose come quella di Atene 2004 sui 20 chilometri, però ci sono state anche altre controprestazioni di atleti che potevano entrare in finale e non ci sono riusciti. Caso a parte, poteva forse lottare per una medaglia Elisa Kusma nella gara degli 800 metri, ma secondo me è andata incontro a una gara che dal punto di vista tattico non le è congeniale, anche perché poi la sua disamina della gara mi è sembrata molto poco lucida, sì. Perché l'inglese che era al suo fianco dai 500 ai 600 ha raggiunto il gruppo di testa, è arrivato terzo. E meno ancora mi è piaciuto nelle dichiarazioni. Bravissimo. Guarda, Giorgio, questa è stata la pagina più vergognosa del mondiale intero. Ne abbiamo già parlato ieri, no? Un'altra pagina, quella di Botti ieri sera, tra poco ne parliamo. Insomma, la pagina più vergognosa di questo mondiale è stato il pubblico linciaggio a questa ragazza che ha vinto gli 800, che sia ragazza, ragazzo, trans, quello che vuoi, ermafrodita, quello che vuoi tu, è un individuo di 18 anni, è stato pubblicamente linciato con la compiacenza della IAF e del CIO. Poi fuori chiaramente Carlo che è una ragazza, sarebbe vergognoso due volte. Sì, no, ma vergognoso lo è comunque. Fare anche del razzismo estetico, e questo è insopportabile, non c'è dubbio, specialmente in un ambiente sportivo. Senti, per parlare invece di cose belle, ieri sera è tornato il Marziano. Ha fatto una finale contro se stesso e questo è ciò che mi ha più sorpreso. Ieri ti dicevo, non sono così convinto che possa fare il record perché non ha avversari di livello. Beh, la gara lo ha dimostrato. Che sia riuscito a fare 9-19 contro se stesso è forse la più grande impresa che ha fatto. Ma lui sicuramente lo voleva, si era capito un po' anche nei 200. È vero, non aveva il grande avversario, ma si è capito un po' dalla progressione, dalla semifinale. Si era capito che poteva tentare l'impresa. Quella è stata la differenza rispetto all'anno scorso, ma sicuramente intanto il tempo di reazione allo sparo 0.133, che volesse il record, lo dice il fatto che sia stato il più veloce ad alzarsi sui blocchi, e poi anche forse di non aver avuto sempre un vento leggermente contrario di 0.3 rispetto al 0.9 che sicuramente l'anno scorso lo ha penalizzato, quindi 11 centesimi di miglioramento sui 100 metri, 11 sui 200 metri, trovasse una gara, Carlo, non all'ottava gara del mondiale, ma in freschezza e magari un vento leggermente amico di magari nell'ordine di un metro, potrebbe davvero correre vicino, sì, ai 19 netti. D'altronde i teorici dicono che con 9,58 più o meno si deve raddoppiare il tempo sui 200 metri, quindi il che farebbe 19-16. Senti, io spero sempre di vederlo nei 400, adesso lo continuo, ricominciano a spingerlo tutti, però un giorno ne parliamo con calma. Per rimanere, Giorgio, agli eventi di ieri sera, tu sai, dichiaro e ammetto tutta la mia ammirazione non solo sportiva per la principessa di Croazia Blanka Vlasic, nella gara dell'alto è tornata campionessa del mondo, ha battuto la Friedrich, bravissima la Cicero ad essersi inserita nella lotta tra le due, è stata una bella gara, anche se non su livelli fantascientifici dal punto di vista tecnico, io credo. Guarda, è stata, Carlo, una gara di grandissima tensione, emotività, sì. E poi magari anche molto disturbata perché c'è stato il record del mondo di Ball, perché nella zona di dove saltavano c'era sempre traffico. Io diciamo che avevo un po' preannunciato questa, così parlando così con gli amici, questa vittoria della Vlasic, perché dico, possibile che questa non abbia questa arrabbiatura perché ha perso il titolo olimpico, le hanno portato via proprio la Friedrich il premio $500,000 della Golden League l'anno scorso, dovrà avere una reazione e l'ha avuta alla grande la Friedrich, forse era un po' troppo sicura di vincere, ma quella che ha condizionato la gara un po' di tutte e anche della nostra Di Martino è stata la Cicerova. La Cicerova con quel salto a 2-2 ha messo in crisi per un momento la Vlahovic, sicuramente la Fredi, che praticamente ha tagliato fuori la Di Martino dalla possibilità di prendere una medaglia. D'altronde anche la Cicerova ha un fisico straordinario, quindi gara di grandissima emotività e finalmente qualche lacrimone di questa bellissima ragazza alta 1,92. L'anno scorso aveva sofferto, ma alle grandi sofferenze spesso si riesce a trovare la forza per le grandi imprese. E certo, così forse è una lezione che dobbiamo imparare anche noi. Grazie Giorgio. Alla grazie prossima. A voi. Grazie a Giorgio Rondelli. Ci fermiamo per il traffico, poi continuiamo a parlare di atletica ma applicata al calcio, perché secondo me questa è la vera chiave di lettura delle prime, sarà la vera chiave di lettura delle prime giornate di campionato. Primo ascoltatore di oggi è Cesare dalla provincia di Napoli, buongiorno. Volevo fare due o tre domande, non so, sì. Riflessioni. Uno è come vedi il campionato italiano Juventus, perché l'anno scorso ho visto che l'Inter non ha preso un rigore contro e non riuscirò a capire come farà la Juve a vincere il campionato. Sì. Se lo cominciano a fischiare. Due, in Europa non siamo competitivi, perché visto le squadre che si stanno formando tra Barcellona e Real Madrid, penso che anche lì non andremo lontani. E terzo, una piccola cosa personale mia, visto l'Italia che abbiamo visto in Africa, che ha fatto ridere, io dico, ma là davanti, se c'era Del Piero a posto di un certo Rossi o così, avremmo fatto più bella figura, non lo so. Non lo so nemmeno io, ma non lo sapremo mai, perché... Questa è una mia idea, perché sì. Io, i piedi di Del Piero non si possono discutere, ho visto Rossi che non saltava un uomo, quello che vuoi te, una punizione. Ho capito Cesare, però il mondo davanti, io ho l'impressione che qui parli un po' al tifoso su tutti e tre i fronti. Ho capito, eh. Ma io vedo la Juve giocare, quando manca Del Piero manca tutto là davanti, adesso è arrivato Diego, vediamo che fa, ma ragazzi, qualcosa fa, stai tranquillo, perché insomma, mi sembra un gran giocatore Del Piero. Io insomma ripeto, questo è il tifoso che parla, l'amore che parla. Poi Del Piero, insomma, la stagione scorsa, buona parte della stagione scorsa io non l'ho visto così devastante per la Juventus. Grazie Cesare, proviamo a rispondere anche utilizzando la chiave di lettura che ho annunciato prima. Rimaniamo nel campo dell'atletica dopo i mondiali di Berlino, atletica però applicata al calcio, perché ho l'impressione che questa sia la vera chiave di lettura per capire almeno il primo mese di campionato. Per questo siamo andati a disturbare fino in Russia, però è troppo gradevole parlare con lui, fino in Russia, Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo. Ciao Carlo, grazie per le belle parole. Come va con la Lokomotiv? Va bene, probabilmente io mi rendo conto strada facendo che sono anche un uomo fortunato per avere la possibilità di fare queste esperienze, e poi perché sono arrivato qua la squadra non vinceva da 5 domeniche, abbiamo fatto 3 vittorie in stecca, quindi non è che ci posso aver messo molto del mio, ma forse la presenza, la positività, ecco, abbiamo ripreso. E d'altra parte l'idea è di riprendere da qua alla fine dell'anno, che vi ricordo che qua il campionato finirà il 29 novembre, per cercare di entrare, adesso siamo sesti, entrare nei primi 4, 3, 5, per agganciare un posto in Europa, ecco, per poi fare bene l'anno prossimo. Senti Vincenzo, perdonami la digressione, ma giusto che eravamo in argomento, avrai seguito i mondiali di atletica, no? Certo, io non ho un'idea sui motivi veri della crisi profonda della squadra italiana, non ho nemmeno, men che meno, un'idea sui percorsi da scegliere per risolvere questa crisi. Però chissà come mai mi viene in mente tu, mi viene in mente Messina, mi viene in mente la Pennetta che va in Spagna e si costruisce una classifica mondiale, certo, da numero 10, mi certo, viene in mente la Pellegrini stessa che è una furbetta e va ad allenarsi negli Stati Uniti, mi vengono in mente quei professionisti che vanno all'estero a misurarsi, a mangiare pane duro, a lavorare con i migliori, senza paura e con le strutture adeguate. Può essere questa una soluzione? Ma guarda, il problema dell'atletica tout court, beh, io i campi d'atletica li frequento ancora quando vengo in Italia, perché è la mia passione grande dentro. Purtroppo il problema dell'atletica è che i campi sono vuoti, proprio che c'è pochissima base di partecipanti, pochissima base di ragazzi che incominciano, e questo non ti so dire perché, se è un fatto anche di promozione, però gli sport di fatica sono tutti in grande difficoltà. Abbiamo ancora una sacca buona nel mondo, diciamo così, della corsa, della maratona, anche se casomai poi ai mondiali non so cosa faremo, ma lì siamo presenti perlomeno nei primi dieci al mondo, ma ci mancano completamente delle gare, come anche gli ostacoli, la gara da cui provengo io, dove una volta, attenzione, noi eravamo maestri e allenavamo noi tutto il mondo negli ostacoli negli anni 80, i nostri allenatori erano assolutamente ai vertici. In Italia vengono ancora a allenarsi, pensa a quanti africani si allenano in Italia. Noi abbiamo know-how importantissimo, il gruppo Rosa che va in Kenya, per dire, tanti africani che si allenano in Italia. Abbiamo ancora il centro di Formia che funziona ormai più per gli stranieri che non per i nostri. Ti ripeto, il problema dell'Italia è un problema di praticanti. E poi per il resto è chiaro che a volte fare quello che hanno fatto gli atleti che tu hai menzionato è anche, diciamo così, un darsi delle scosse positive, perché continuare sempre sulla stessa riga si rischia un po' di cadere nella routine, che secondo me quando nello sport entri nella routine hai finito ai grandi livelli, perché probabilmente finiscono anche le motivazioni, ecco. Certo, mi viene in mente il percorso di perverso in cui è caduto Andrew Howie. Però parliamo di pallone, c'è chi si allena sugli aerei e lo sappiamo, chi in montagna come una volta. Pirlo che dice: negli Stati Uniti abbiamo perso un sacco di tempo e di lavoro. Anche per questo io penso domani a Siena il Milan farà una gran fatica, così come faranno una gran fatica tutte quelle che si sono allenate sugli aerei, Vincenzo. Sì, certo, tu fai un pochino così un'immagine che è molto vera. Io continuo ancora a chiedermi, perché credo tra l'altro che l'immagine delle società sportive, e parlando di immagine parliamo anche di risultati e vogliamo anche parlare di budget, poi per dire, derivano tutte da quelli che sono i risultati sportivi. Quindi secondo me occorre fare il massimo, il focus, l'obiettivo deve essere: facciamo il massimo per raggiungere grandi risultati sportivi, perché poi abbiamo grandi budget a disposizione. Secondo me è un po' la strada che abbiamo dimenticato, perché noi facciamo qualche soldo in precampionato, però poi rischiamo di arrivare al momento in cui gli altri si giocano le coppe e noi abbiamo bisogno dell'ossigeno, ecco. Sì. Quello che traspare poi dalle interviste di Pirlo, piuttosto che anche di altri giocatori, è super vero. Altre squadre pensano ad allenarsi, da noi in Italia pensiamo troppo a dei giochini che poi a gioco lungo si riversano contro i risultati. Naturalmente, e il nuovo trend comunque, Vincenzo, è quello di allenarsi giocando, eh? Un trend che può essere anche non sbagliato. Io non discuto lo stile, discuto la scelta, Carlo, per dire, noi dobbiamo dire vogliamo allenarci, però attenzione, perché il problema nostro, noi parliamo molte volte della prima squadra, dei ragazzi, dei giocatori di 25, 24 eccetera, facendo di questo metodo anche il metodo dei ragazzi che crescono, non abbiamo giocatori che arrivano ad essere atleti nel momento in cui devono sfondare, perché stando all'estero la cosa che balza agli occhi è il numero di infortunati, Carlo. Io quando ero in Italia anch'io avevo un discreto numero di infortunati, lavorando allo stesso modo o sicuramente più intensamente all'estero non ho infortunati. Per dire, oggi la Lokomotiv si è allenata, su 25 giocatori ne mancava uno che è stato recentemente operato in Germania, se no 24 giocatori erano sul campo, e questa è quasi la costante. Secondo me noi dobbiamo fare un pochino critica su questa cosa, perché a gioco lungo il non allenarci, per dire, ma non diciamo allenarci di più con l'atletica in modo individuale, con la squadra, il non allenarci ci porta poi a avere più problemi a livello di infortuni, certo, perché la chiave degli infortuni è quella. Ma non c'è dubbio che sia questa, Vincenzo, però se il nuovo trend è allenarsi giocando, cosa deve fare il preparatore atletico? Credo debba fare un lavoro differente, molto il differente rispetto al passato. Io è da molto tempo, per dire, che scrivo anche sulle riviste dicendo che la figura del preparatore è una figura che è cambiata nel tempo, chi l'ha capito l'ha capito, altrimenti si rischia di essere un assistente inutile in più sul campo. Il preparatore atletico deve essere responsabile di tutti i discorsi di prevenzione, di tutti i discorsi di recupero muscolare, e deve aiutare i giocatori, soprattutto quelli che non stanno giocando, per mantenere la condizione. Deve essere responsabile di tutti i vari indirizzi individuali della preparazione. Poi il giocatore sul campo deve pensare a fare l'allenamento specialistico per il calcio, ma questo è normale anche negli altri sport. Non c'è più l'immagine del giocatore che solo fa la corsa nel bosco, o la può fare in un certo periodo per condizionarsi. Sì, certo. Senti, però, per dire, il problema è di allenarsi in generale, Poi possiamo discutere anche sul come, ma secondo me ormai in Italia siamo ancora al problema di quanto ci siamo allenati Chiaro. Prima di arrivare al campionato. Chiaro. Ti giro una domanda di un ascoltatore, Stefano da Monza. Il preparatore atletico personalizzato nel calcio, ad esempio del Piero, Totti, eccetera, come lo vedi? Pensi che possa essere positivo questo discorso per un atleta? Ma sai, io dico che il problema può essere poi il coordinamento dello staff del gruppo. Però è chiaro che una persona che lavora accanto a un atleta in modo specifico conosce perfettamente l'atleta. Ecco, poi possiamo discutere del discorso staff, combinazioni, però per dire se questo preparatore serve per far lavorare di più questo giocatore, sicuramente serve. Ad esempio il giorno di riposo dopo una partita per un giocatore che non ha giocato non ha senso, Carlo. E questa però, siccome noi ragioniamo sempre in termini di 24 giocatori tutti insieme, è una logica. Un giocatore che non gioca, importante. Il sabato si è allenato pochissimo, il venerdì poco, la domenica non ha giocato, il lunedì fa riposo, fa un allenamento su 5 giorni. Certo che è così. Vincenzo, ti chiedo ancora questo. Ormai sì. Rose, dove il 20° della Rosa è un giocatore molto importante, non è un ragazzo giovane che aspetta. No, naturalmente. Sarà un primo mese strano, io credo, per il nostro campionato, forse anche di più di un mese. Campionato che parte molto presto, appunto con le grandi poco allenate e forse mai così poco allenate come quest'anno. Come sarà secondo te questo avvio di stagione e quanto può servire alle grandi per riportarsi al passo una volta che rientrano nella quotidianità del lavoro? Io credo che 3-4 partite poi ti permettono, anche accompagnate da 3-4 settimane, per dire, dove i giocatori poi riescono a lavorare, per dire, tipo, porterà ad un allineamento. È chiaro che tutto quello che hai sottolineato tu, se le squadre piccole hanno lavorato bene, in queste prime partite possono avere vantaggi, ecco. Ci potrà essere proprio, in Italia è già molto forte il discorso che anche l'ultima in classifica ti può mettere in difficoltà a prescindere dalla condizione, per dire, perché c'è molto equilibrio, però questo può fare ancora di più un equilibrio differente, diciamo così. Vincenzo, grazie, buon lavoro. Buona trasmissione a voi, ciao a tutti. Grazie davvero, Vincenzo Pincolini. C'è chi scrive via SMS: in America c'erano anche Chelsea e Manchester oltre a Milan e Inter eccetera, infatti non mi sembra che siano partiti in maniera scintillante. Il Chelsea sul piano dei risultati sì, e ne siamo molto felici, sul piano del gioco un po' meno, è partito forte almeno numericamente come punti in classifica grazie ai colpi di Drogba e compagnia. Per il resto aspettiamo ancora un attimo. Il Manchester invece mi pare che sia partito pianino, anziché no. Emilio, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno gente, volevo anche intervenire sui rovesci degli atleti italiani nelle ultime manifestazioni. Partirei dall'atletica. Allora, a parte le considerazioni giuste che avete fatto voi, secondo me c'è anche da dire una cosa. Vado a memoria, ma mi rifaccio a tutte le ultime manifestazioni dell'atletica, ad esempio. Collio si presenta con 10.06 e poi fa 10.50. Io ho l'abitudine di guardare su Eurosport e sento Rondelli perché poi alla Rai c'è la processione di allenatori e atleti che si giustificano uno dopo l'altro. Sì. Manifestazione dopo manifestazione, arriva da 10.06, fa 10.50. Ci sono i tre del triplo che arrivano da buone prestazioni, tutte oltre i 17 metri, poi arrivano e fanno uno un metro di più, uno un metro di meno e gli altri mezzo metro di meno, più o meno, insomma. Con prestazioni che avrebbero comunque garantito, perdonato sicuramente, ma quasi anche per gli altri, una medaglia. Allora mi viene il dubbio che queste prestazioni, specialmente quelle effettuate in Italia, non siano vere. Non lo so, perché non riesco a spiegarmelo diversamente. Poi c'è il fatto che diceva lei, cioè che gli allenatori, quelli bravi, ma questo non vale solo per l'atletica, secondo me. Vale per tutti gli sport, certo. Vale, tra un po', io sono del Toro, quindi di calcio parlo poco, però tra un po' vedremo anche Ancelotti, che è andato via come un reprobo. Vedremo cosa faranno i suoi sostituti con le squadre che allestiscono quei presidenti. Sì. No, ma insomma, bisogna riflettere anche su questo. È vero quanto lei dice, che ci sono prestazioni e controprestazioni, ma assistiamo anche in alcuni casi ad atleti, ad esempio il caso dell'azzurro di oggi. È chiaro che siamo alle spigolature, però De Luca ha fatto il suo primato personale nella 50 km. resta comunque l'immagine di un movimento che faceva della marcia la sua ultima ancora di salvezza, degli sport di fatica, che è andato a fondo anche da quel punto di vista. Ora, ripeto, io non conosco i motivi, non voglio partecipare alle mille tavole rotonde che si apriranno sui motivi della debacle italiana. Mi limito a notare che ci sono state delle scelte che hanno portato i nostri atleti all'estero a lavorare con i migliori, senza i riflettori addosso, con le strutture adeguate. Mi viene in mente, ripeto, il caso della Pennette: sono riusciti a costruirsi un futuro. Vedo invece, soprattutto nel campo dell'atletica, i nostri che vanno bene a un'Olimpiade o a un Mondiale e poi cominciano le fotografie, i riflettori, le comparsate televisive, le isole, le pubblicità delle merendine, tutte queste cose, e un po' si perdono. Io do retta a Giorgio Rondelli quando dice: non è vero che queste cose non te le porti in gara, te le porti dietro. E può essere che questo abbia avuto un peso, non so quanto decisivo. Poi è chiaro che il fondo della verità è quello di cui si parlava prima con Vincenzo Pincorini, e cioè i nostri campi di atletica sono vuoti, il bacino di utenza è povero, il materiale umano a disposizione è povero, sul talento fisico siamo poveri, e dunque non potremmo mai essere una grande potenza dell'atletica. Però tra l'essere una grande potenza e arrivare e tornare a casa con due medaglie di legno, penso che ce ne passi di strada. Adesso però io faccio la strada che mi porta in Spagna da Filippo Maria Ricci, che reduce dalla prima Ibra intervista. Ciao Filippo. Buongiorno a lei. Sai qual è la risposta che più mi ha dato l'immagine di Ibrahimovic alla tua intervista di oggi sulla Gazzetta dello Sport? Allora, tu che gli chiedi: in Italia sta per cominciare il campionato e Mourinho ha scaldato la polemica, e lui: ha ha ha, ho visto, ma io ormai gioco in Spagna. Esatto, insomma, mi sembra abbastanza la foto chiaro di Ibra, diciamo, una buona testimonianza del personaggio. Tra l'altro, molto io non lo conoscevo, perché no, sono all'estero tanti anni, quindi l'avevo fatto una volta la Spagna e la Svezia, che giocavo qui in Spagna, però per il resto non ho mai i contatti. E che mi è parso sì molto disponibile, molto rilassato e soprattutto veramente estasiato dall'accoglienza ricevuta. Questo 94.123 persone, appunto, io gli ho anche chiesto, lui è rimasto un po' così, non aveva mai giocato di fronte a tanta gente, e alla fine era un torneo estivo, partita di scarso valore, e si è visto che lui, appunto, doveva giocare 20 minuti, ha voluto giocare tutto il secondo tempo, si è impegnato alla morte. A me mi ha colpito quando lui è andato a prendere questo pallone in alto, ha fatto un botto incredibile per andare su di testa, perché si vedeva che, infatti poi dopo si è spaventato, mi ha detto: no, mi sono preoccupato, visto che la palla era andata troppo su, dice: ormai ero là, ci sono andato, però perché voleva fare qualcosa per questa gente. Insomma, da quando è a Barcellona veramente è stato trattato in una maniera incredibile, insomma, ecco. Senti, come stanno? Non voglio dire che all'Inter non fosse trattato in maniera meravigliosa, certo. Questo non mi interessa, lo dico solo che, qui a Barcellona veramente c'è stata un'accoglienza incredibile, anche perché è l'unico, è un grandissimo campione, ma è anche ovviamente presente l'unico acquisto insieme a Maxwell, quindi. Sì. Come stanno Barcellona e Real Madrid? Perché oggi c'è la disputa sulle condizioni di Inter e Milan, che si sono allenati nei corridoi degli alberghi e negli aeroporti. Anche Real Madrid ha fatto e sta facendo la stessa cosa, però l'altra sera quantomeno 5 squilli a Dortmund li ha lanciati. Come stanno? Allora, le due squadre, guarda, il Barcellona sta bene. Domenica dovrebbe vincere il suo primo trofeo dei 6 che si giocherà quest'anno, la Supercoppa di Spagna. L'andata ha vinto 2-1 a Bilbao, domenica c'è il ritorno. Non ci sono ancora praticamente Messi, Iniesta. Sì, Messi ha giocato un po', è quasi pronto, però mancherà nella prima di campionato, manca Iniesta, manca Marquez. Hanno una rosa molto corta, Ibrahimovic ancora praticamente no, appunto, quasi non c'è. Il vero problema del Barcellona è che dovevano comprare almeno altri due giocatori, non ce li hanno. Hanno 21 giocatori, due andranno in Coppa d'Africa, quindi in gennaio ne avranno 19, sono troppo pochi, più una nidiata di ragazzini bravissimi, tutto quello che vuoi, però insomma non è che ti può sempre andare bene. Però a livello di condizione per me stanno già bene. Il Real Madrid sta crescendo partita dopo partita, e ovviamente cresce sulle spalle di Kakà, che è il vero fenomeno, diciamo, acquistato in mezzo a tanta altra gente da Real Madrid. Senti, Cristiano Ronaldo Ronaldo, ieri leggevo sulla stampa un articolo del mio amico Marco Ansaldo che diceva: Cristiano Ronaldo non si trova a Madrid, solo, isolato, un po' depresso, con mille occhi addosso, anche sul campo non perfettamente integrato. Sì, questa era la ripresa della prima pagina di Marca del giorno prima. Prima pagina abbastanza strana, se vogliamo. Marca, un giornale allineatissimo con il regime, tirano fuori questo tema. Effettivamente lui non sorride, già tende, no, a essere piuttosto istrione, però in maniera un po' presuntuosa. Un conto è se metti dentro punizione a 40 metri o se fai dei grandi giocate, tenere il muso, no, fare l'imbronciato alla pari Hilton quando poi non riesci a far gol neanche ai Seattle Sounders, è chiaro che ti può portare qualche problemino in più. Sì, non si è ancora adattato. Qui hanno citato il caso di Zidane, che arrivò dalla Juventus ovviamente tra squilli di tromba e milioni di milioni, e ci mise un po' a trovare la sintonia. Però per me è molto divertente, più che la crisi di Cristiano, vedere come, sì, da una parte c'è la crisi di Cristiano, dall'altra c'è quell'ascesa incredibile di Kakà. Leggerissima, ascesa leggerissima, col sorriso sulle labbra, con grande semplicità, con grande, esatto, classe. Perché sai, mentre Ibra è solo là, per cui Ibra bene o Ibra male, però è una questione, non so, personale. Qui, se Cristiano va male, Kakà non è che lo aspetta, non so come dire. Kakà si prende in mano il Real Madrid, e il vero, per me, alla fine, no, il vero fenomeno, il vero grande acquisto è lui, per serietà, per disposizione, per forma mentis e varie altre qualità. Per cui sono curioso un po' di vedere come un conto è una squadra con un solo grande acquisto, ma una squadra che ha speso 255 milioni prendendo 5-6 giocatori, di cui 3 o 4 di buon o grande livello, voglio dire, non c'è molto tempo. Se te non vai bene, beh, ci sarà qualcun altro che si prende i titoli, i gol e le vittorie, no? Certo, e Ricky è già pronto. D'altra parte, questo mi sorprende pochissimo, conoscendo un pochino Riccardo Kakà. Quanto invece alla questione di Snyder, Real Madrid è lì, non sei comprato esattamente da... Valdano non è stato esattamente il principe di Galles, eh. È andato a Dortmund, no, e gli ha detto: ascolta, tu a Madrid non giochi più, a Madrid non giochi più, e meglio che non torni, se no non ti facciamo neanche allenare, è meglio se vai all'Inter. No, forse però, scusa, tu hai citato il principe di Galles, è un po' come Diana e Camilla, anche loro si è comportato male, quindi... Anche Valdano, sì, non era l'esempio giusto, però no, in generale sì, un comportamento tra l'altro che i tifosi, i giocatori e la stampa faticano a comprendere. Ieri c'era un bel pezzo su Marca in cui diceva: ma perché non cacciate via Diago, che ne abbiamo quattro in quel ruolo, ed è uno che non prende un pallone. Snyder è un ragazzo onesto, giovane, nazionale olandese, ma poi uno che dice no, io voglio restare qui, uno che dice io voglio restare qui a Real Madrid e giocarmi il posto con tutti quelli che ha davanti, insomma, dimostra anche un discreto paio di attributi. No, esatto, ma anche perché poi questo è un ragazzo, quelli che ha davanti se li può mangiare, perché le qualità ci sono. Vuol dire, segna su punizione, può giocare in varie posizioni, diciamo, no, della parte offensiva, può essere utile a questa squadra, come per esempio si stanno accorgendo dell'utilità di Robben. Vuol dire, Robben il problema è che si è rotto 15 volte in 19 mesi, mi sembra, no? Quindi, però Robben potenzialmente è uno dei 10 giocatori migliori del mondo se potesse giocare 30 partite di fila. E anche lì lo volevano scaricare, hanno pagato 36 milioni, adesso si sono resi conto che, vuol dire, lo tengo lì, se poco poco non si infortuna, questo è uno che ti risolve le partite. Snyder è uguale, ma io ti dico, lo stesso Van der Vaart, ok, a Madrid ha fallito, però questo, capitano dell'Olanda, ha giocato benissimo in Germania, era uno tra i migliori giocatori della Bundesliga, lo trattano, infatti lui si è lamentato già due volte, lo trattano come, non so se fosse, cioè, un Calloni, diciamo, olandese. Cioè, non si spiega perché Real Madrid ha una gran fretta di vendere, però non si riesce a capire perché deve trattare così male questo tipo di giocatori, che non sono giocatori di secondo piano. Anzi, io penso che l'Inter, semmai poi riuscirà a mettere le mani su Snyder, a qualsiasi prezzo, che siano 15 o 20 milioni, farà comunque un... Sì, sono d'accordo, sono d'accordo, ma l'ho sempre detto. Filippo, ma c'è qualche dubbio sul fatto che Snyder arrivi all'Inter? C'è ancora qualche dubbio? Søren Lerby ha messo giudizio, agente di Snyder... è riuscito a raggiungere un accordo o siamo ancora lontanucci? No, oggi c'è una riunione al Bernabeu tra Lerby e Valdano. Il problema, secondo me, è uno, il trattamento del giocatore, per cui ha creato, diciamo, questo comportamento del Madrid ha creato comunque una certa tensione. Sì. E secondo, l'unico problema cioè, è lo stesso Real Madrid, nel senso che il giocatore vorrebbe restare. Però se se ne va, io penso che possa andare solo all'Inter, insomma, e mi rallegro che l'Inter abbia spostato cioè l'obiettivo sia passato da Deco a lui, vuol dire c'è un abisso, no, tra i per prospettiva, no, per i due giocatori, e io quindi dico, cioè, ora sembrava fatta già tante volte, quindi questi affari che sembrano fatti e poi non lo sono, a volte magari saltano. In generale, il Real Madrid ha bisogno di liberare ancora tre posti adesso, perché Negredo hanno venduto. Entro il 31 agosto devono dar via tre giocatori. Uno è Van der Vaart, che però appunto ancora comunque non ha squadra. L'altro dovrebbe essere Sneijder, e ne sarà un terzo. E quindi da qui al 31, io penso che sarà un giocatore dell'Inter e forse può esserlo già oggi pomeriggio, questa sera, insomma, ecco. Allora, caro Filippo Maria Ricci, l'altra sera sono andato allo stadio a vedere Milan-Juventus e ho visto Ronaldinho che faceva il centravanti e Huntelaar che faceva l'ala destra. A un certo punto ha cercato Huntelaar lo slalom per raggiungere il fondo e scodellare un pallone per Ronaldinho centravanti. Non gli è riuscito benissimo, devo dirti. Povero Huntelaar, bisogna controllare, è un ragazzo sfortunato questo, perché viene comprato dal Real Madrid per risolvere i problemi, si infortuna Van Nistelrooy. Dopodiché questa era una gestione talmente pecoreccia o casereccia del Real Madrid, per cui scoprono che possono mandare in Champions League o lui o la Sierra, e siccome vogliono difendere mandano la Sierra e quindi il ragazzo rimane senza la Champions League. Super demoralizzato, gli chiedono di fare un gol a partita, lui non ce la fa, insomma, comincia un po' male, poi va meglio, finisce in panchina, non gioca quasi più. Poi dopo lo vogliono scaricare, aveva un contratto di non so se 4-5 anni, dice vabbè, tu te ne vai allo Stoccarda, e lui dice ma scusate, perché devo andare allo Stoccarda, e poi alla fine finisce al Milan, è un Milan che insomma in metamorfosi, mettiamola così, con qualche difficoltà, e lui non ha difficilmente potrà vestire i panni del salvatore della patria, è un buon giocatore, però così insomma, ecco, non sì, vediamo, insomma, potrà fare un po' di gol, ma non è esattamente un fuori classe. E adesso tu mi racconti che deve andare sulla fascia a fare i cross, sì, col piedone che si ritrova alla destra, e i centimetri di cui l'ha dotato madre natura, insomma, mi viene a pensare un po' sfortunato. Sì, un po' sfortunato come minimo. È un giocatore d'area di rigore, un giocatore bravo in acrobazia, che ha colpi da centravanti vero. Se lo fai giocare dalla destra, ovviamente no. Così come far giocare Ronaldinho centravanti, che Ronaldinho partiva proprio sul limite dell'area offensiva in posizione centrale e faceva il sentiero del passeggio di 20 metri per tornare verso il centrocampo a prendersi il pallone. Questo è l'impiego di Ronaldinho. No. Allora, intanto ormai festeggiamo i 3 anni e mezzo quasi, no, dall'ultimo Ronaldinho galattico, sì, perché era prima della finale di Champions League 2006, no? Lì si è spento Ronaldinho e da allora l'abbiamo visto a tratti molto, diciamo, molto diluito. Comunque, se uno torna indietro a quel Ronaldinho, diciamo quelle due stagioni e mezzo, tre col Barcellona assolutamente fantastiche, no, Ronaldinho non era in area, Ronaldinho era fuori dall'area, in area c'era Eto'o. Filippo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. A presto, abbraccio. Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Siamo partiti dall'azzurro pallidissimo dell'Atletica, chiudiamo con un altro azzurro altrettanto pallido. Ci eravamo lasciati esattamente 7 giorni fa a quest'ora, un po' prima per la verità, con Dan Peterson e con le dita incrociate per un'Italia che doveva andare in Francia. Adesso abbiamo un'Italia che le becca anche in casa dalla Finlandia in una partita che tristemente non conta più nulla. Ciao coach. Ciao ragazzi, ciao caro amici sportivi, buongiorno a tutti. Peggio di così difficile, eh? Sì, è proprio. È chiaro che anche stiamo parlando di una partita che non contava, però ovviamente ci voleva chiudere, cioè, con una vittoria almeno davanti ai tifosi di casa, il mass media di casa, eccetera eccetera. Quindi neanche questa, e quindi delle tre squadre in quel girone lì l'Italia finisce proprio ultimo posto, tanto, sì, per dire. Quindi, senti coach, io la penso un po' come Luca Chiabotti, che ha detto a Cialdini e Calcati: vogliamo e vorremmo sempre un bene dell'anima, però a questo punto sarebbe opportuno quantomeno mettere in discussione la sua posizione di commissario tecnico. cosa che non verrà fatta, perché anche dichiarazioni di oggi, anche notizie di oggi dicono che Kere Calcati rimarrà al suo posto alla guida della nazionale, ancora un contratto lo ricordiamo. Però al di là dei risultati che negli ultimi anni non sono arrivati, anche da quello che si giudica l'operato di un allenatore, però c'è l'impressione che con questo gruppo, che è l'unico possibile anche per il futuro, Charlie non abbia legato moltissimo. Questo non lo so dire esattamente, perché sono qui a vedere le partite in TV, non presente agli allenamenti, quindi ho le partite, non ho visto una partita in persona. È chiaro che ogni allenatore è quello che definisco, ho sempre detto, è schiavo dei risultati. Cioè, mio boss a Bologna, Gianluigi Porelli, mi diceva: coach, non mi interessa quello che tu fai in allenamento, fai gli allenamenti bellissimi, io giudico il tuo lavoro per quello che fa la squadra in campo domenica. E quindi quello che abbiamo visto dalla nazionale, e non solamente in questa manifestazione qui, è dopo l'Olimpiade del 2004, in cui Recco Cati ha pilotato la squadra al secondo posto, certamente il più grande miracolo nella storia italiana, 6 anni, compreso il 2010, l'anno prossimo, con risultati disastrosi, cioè non ho posto, uscito ottavi finale, 0-5 europei, non qualificato per il mondiale, pagato il ripescaggio mondiale 0-6, non ho posto ancora lì, non ho posto europei di 0-7, quindi non qualificati per le Olimpiadi, qui non qualificati per gli europei e non qualificati per il mondiale di 2-10. Quindi questi sono 6 anni in cui non solamente non vediamo risultati, ma non vediamo il gioco, cioè la certo. squadra non gioca, e voi e tu soprattutto hai detto una cosa: coach, non mi piacciono le facce. Non mi piacciono le facce. Esatto. A partire da Bargnani e Belinelli, che dovrebbero essere i due super giocatori di questa squadra. Okay. Io dico questo, cioè io ho dato un articolo, non so quando andrà alla Gazzetta dello Sport, che ci vuole alla nazionale, se io sono, non mi sto candidando per l'allenatore della nazionale, sì, è chiaro, però se io sono io ho allenato una nazionale, il Cile, ok? Uh-huh. Io devo, la mia idea, io devo avere una squadra con una identità. Io ho lasciato a casa alcuni giocatori forse con più talento, certamente di sì, perché volevo tutti i guerrieri, i Marines, i famosi indiani del Cile, los Araucanos, ok? L'unico tribù di respingere los conquistadores, anzi, li hanno rispedito a casa con la coda fra le gambe, ok? Quindi, detto, io voglio questo. Tu vuoi quelli lì? Quella è l'identità. La banda Bassotti a Milano, che tutti con i nani con il coltello fra i denti, questa, cioè, prima cosa che voglio fare, identità. Io non mi interessa la bellezza del giocatore, la tecnica, quello che fa. Io voglio 12 combattenti, diciamo 10, e in questo contesto qui inserisco Belinelli e Bargnani, o fuori 9 inserisco anche Gallinari, o in un contesto così. La prima cosa che, e tu hai detto la settimana scorsa, la prima cosa che la nazionale deve avere è un'identità di guerrieri e di operai, ok? Questa è la prima cosa. Il pubblico adesso, voi, la stampa, tutti quanti, mass media, tutti delusi, perché non hanno visto combattere. Esatto, e la gente vuole questo, se la squadra può perdere. Ieri, e voi avete parlato della tecnica leggera, la Blanca Vlasic ha vinto il salto in alto, la ragazza tedesca alla fine ha sbagliato l'ultimo salto. Trionfo per lei, è andata lì braccio in alto, ovviamente paese suo eccetera, però applausi per tutti, perché il pubblico ha capito, non è solamente il nostro, ha perso, certo, ma ha sputato sangue. ha dato tutto quello che aveva, ha perso con il numero uno al mondo. E quindi se tu vai dentro e la gente vede che tu dai tutto, in campo, il tuffo per la palla vagante, lo sfondamento che prende, il rimbalzo che tocca 3 volte e poi controlla con un'unghia, un assist a un compagno, cioè lo vedono questo qui, anche se tu perdi. Ma guardi, a Milano abbiamo perso le partite, ma nessuno veramente ci ha fischiato, non ci mi hanno fischiato una volta, non alla squadra ma a me, e quindi, però voglio dire che la gente apprezza questo. Certo. E, Questa sarebbe la mia prima idea per la nazionale. Certo, intanto stavo leggendo sugli schermi le dichiarazioni di Pianigiani che dice nazionale adesso, non adesso, magari in futuro, insomma resto a Siena, eccetera, eccetera, queste cose. Coach, io, a me vengono in mente di fronte a questi risultati dell'Italia, vabbè adesso la si fa un po' drammatica, però altre grandi superpotenze, dalla Serbia alla Croazia, alla stessa Russia prima di tornare ad essere campione d'Europa, hanno attraversato dei momenti molto bui della loro storia recente. America, hai dimenticato noi, all'America, 0-4, terzo posto con 3 sconfitte ad Atene. E un'altra cosa, io ho evitato un po', ho schivato un po' la domanda sul record Carter perché non voglio, essendo ex allenatore, esito a pronunciarmi, ammetto di essere vigliacco, però in questo, cosa ha fatto gli Stati Uniti nel 0-4 dopo il disastro con Iverson, Marbury, quelli perdenti ad Atene, cosa hanno fatto? Cioè, hanno messo Jerry Colangelo, general manager, boss, con tutti i poteri di scegliere allenatore, di scegliere squadre, staff tecnico, di Alfa Omega. Cosa ha fatto l'Italia quando ha avuto i primi grandi risultati olimpici? General manager, chi? Cesare Rubini, 1980, ok? Dopo tutto quello che è venuto dopo, bene, Gamba come allenatore, Meneghini e tutti quanti come giocatore, sarebbero loro i primi a dire che la chiave di tutto è stato Rubini, unica voce con pieni poteri. Ci vuole, secondo me, un grande manager, ci vuole della parte lì, grande mentalità operaia, e Recalcati probabilmente ce lo dice adesso per diversi motivi, certamente ci sono anche i contratti di mezzo e altre cose. È chiaro che lui deve rispondere a tutta questa critica qui, e se non ha le risposte, a lui la scelta, ok? E Pianigiani dice che non andrà. Io non credo che Pianigiani sia l'unico allenatore italiano in grado, se dovesse aprire la panchina nazionale, di fare un buon lavoro, ok? Io sono convinto di questo, però se io fossi io, e non mi sto candidando, il general manager, vorrei un allenatore con la mentalità di avere una mentalità operaia e guerrieristica, come si dice in italiano, guerriera, sì. Guerriera in squadra, cioè proprio voglio vedere i guerrieri con la mentalità operaia. In America voi dite in italiano operaia, in americano noi diciamo quello del collo blu, ok? Sì, voi sì. Dite la tuta blu in Italia, il collo blu, quello che mette la camicia con il collo blu, colletto per andare bianco, a fabbrica, certo. E quello lì, ok? Voglio quelli. Difficile non essere d'accordo con questa ricetta di Coach Peterson. Grazie ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. Allora, sul serio sono d'accordo col coach, insomma è una questione di faccia, di mentalità, di una mentalità che l'Italia ha perso, al di là poi del perdere in maniera anche imbarazzante queste partite, è una questione di mentalità che va recuperata. Non so se a questo punto Cesare Recalcati possa essere l'uomo giusto a cui ripartire, o meglio, magari potrebbe essere l'uomo giusto con il ruolo che tracciava Dan Peterson, quello di grande general manager, di grande scudo sopra questa nazionale. Non lo so, può essere un'idea. Ci fermiamo qui, torniamo domenica dalle 17 alle 19, quindi ricominciamo a marciare su ritmi da campionato, anche se sapete che la prima giornata, anticipi di domani, e poi la partita dell'Inter alle 18 di domenica, poi si gioca alle 20:45, ma noi dalle 17 alle 19 saremo qui e vi aspettiamo. Grazie Gigi Borghi per il lavoro in redazione, Fabio Cantadore in regia, a domenica.